Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Sì, ma lo sapete, no? C'è spazzatura anche nello spazio. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi incominciamo. Due settimane fa, allarme sulla stazione spaziale, sfiorato l'impatto di alcuni detriti vaganti. Ma non è la prima volta. SMS, Twitter e Facebook sono i nuovi strumenti di comunicazione per i giornalisti di scienza. È quanto emerso dalla Conferenza Mondiale di Giornalismo Scientifico di Doha. Malattie, popoli, migrazioni e diffusione dei modelli di vita. Questi gli ingredienti di un nuovo paradigma per la medicina, la geografia della malattia. Capire l'universo. Un saggio ci spiega cosa significa e corregge alcuni errori presenti in molte opere divulgative. Un rapper canadese canta in rima L'origine delle specie di Darwin. Grande successo a New York per lo show dedicato all'evoluzione. Sì, c'è spazzatura nello spazio, magari un po' più nobile, si parla di detriti spaziali, però il problema è complesso. Un paio di settimane fa, sarete stati tutti e tutte raggiunte da questa notizia di un allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale in orbita, e tutti gli occupanti si sono messi dentro le capsule per le Soyuz, per, in caso appunto di impatto con detriti, per vedere di essere pronti a lasciare la stazione. L'impatto non c'è stato. Questa notizia ha avuto una certa rilevanza, però adesso scopriremo che in realtà non è una novità e ci aiuta a capire come stanno le cose per quanto riguarda questi impatti Simona Di Pippo. Buonasera Di Pippo. Buonasera. Che fino a poco tempo fa era direttrice del volo umano per l'Agenzia Spaziale Europea. Ci siamo sentiti prima di questa intervista e lei mi ha detto che non è affatto un elemento di novità questo dell'incontro con detriti spaziali potenziali e quindi di una messa in sicurezza degli astronauti. No, non è assolutamente la prima volta che ciò accade, è la prima volta che questo detrito, che peraltro ha destato un pochino di preoccupazione per il fatto che è passato molto vicino, cioè a 35, poco più di 300 metri, pochi. E soprattutto non se ne conosce la dimensione, cioè non era uno di quegli oggetti classificati. Perché si riescono a classificare un po' i detriti in orbita? Ma sì, c'è un sistema a terra, ci sono circa 30 stazioni, sono 29 per l'esattezza, su tutto il globo, che riescono in qualche modo a caratterizzare questi detriti anche in funzione delle loro dimensioni. Perché sono veramente tanti. Tra l'altro la NASA ha avviato un'indagine e stanno anche discutendo con i russi in questo momento, proprio per cercare di capire se si possono mettere in piedi delle procedure più rapide per poter eventualmente far fare alla stazione delle manovre di, si chiamano in gergo, collision avoidance, cioè sì, di cercare con delle manovre apposite di evitare di essere sulla traiettoria a rischio di impatto con questi oggetti. Perché qui è bene ricordare che la stazione ha un proprio set di motori con i quali riesce a spostarsi, quindi un po' può mettersi in sicurezza. Ecco, ma le chiedo questo, allora ci sono delle stazioni a terra che riescono a fare un monitoraggio costante dei detriti e quindi riescono a dare alla stazione spaziale un avviso dicendo a 2 ore da voi potrebbe esserci un detrito con impatto, è così che avviene il meccanismo? È così che avviene, in realtà ci sono moltissimi detriti e questo sistema a terra riesce a monitorare, almeno speriamo, tutti i detriti che hanno una dimensione superiore ai 10 centimetri. Che è veramente impressionante. Chiaramente gli oggetti più piccoli per il momento non sono monitorabili o comunque non vengono monitorati in modo sistematico e questo crea un problema perché chiaramente anche se la dimensione può sembrare diciamo piccola, in realtà la velocità d'impatto è elevata e quindi può creare comunque dei problemi alla stazione. Ecco perché appunto una palla da biliardo ancora meno, che però viaggia a qualche magari 15.000 km orari, se colpisce un punto minimamente vitale della stazione può essere un proiettile con danni giganteschi. Assolutamente sì, questo è il problema principale. Infatti. Ecco, allora però la procedura è di mettere gli astronauti sulle capsule spaziali, perché queste bene o male forse hanno una solidità maggiore, per cui se fossero colpite, insomma, resistono e possono, si può pensare di sganciarle e portarli a terra? Sì, le capsule Soyuz rimangono appunto in orbita sempre permanentemente agganciate alla stazione, proprio perché fungono sia, diciamo, da veicolo per consentire agli astronauti di tornare a terra quando la loro missione è terminata, ma anche fungono da scialuppe di salvataggio in qualche modo. E quindi questa procedura, che è stata sperimentata e messa in pratica diverse volte, è una procedura, diciamo, standard per mettere in sicurezza gli astronauti. Ecco, mi immagino che sia una roba sulla quale li preparate molto bene, perché insomma non è come calare una scialuppa in mare. Questi devono, da una situazione di relativa tranquillità in orbita, infilarsi dentro una capsula spaziale anche in quattro e scendere ed essere pronti ad un atterraggio che sappiamo essere una procedura alquanto complessa. Però sperimentate moltissimo questo tipo di emergenze. Sì, allora innanzitutto le capsule sono due. Sono due, ok. In questo momento certo. È di sei astronauti, quindi sono due capsule, tre astronauti ciascuna. Chiaramente prima di entrare nella capsula Soyuz hanno bisogno di indossare le tute da volo adeguate, perché chiaramente quando sono a bordo della stazione sono, diciamo, in un abbigliamento più normale, naturale. Invece occorre poi indossare la tuta per il rientro, entrare nella capsula, chiudere tutti, diciamo, i portelloni all'interno della stazione, perché se una parte fosse colpita sarebbe in qualche modo isolata dal resto della stazione, quindi il resto della stazione rimarrebbe, diciamo, più in una situazione, diciamo, confortevole, certo. Quindi loro eventualmente potrebbero rientrare nella stazione, ma se proprio la situazione fosse grave, potrebbero sganciarsi e tornare a terra in sicurezza. Senta, ma a quando astronauti con astronavi spazzini? Perché qui bisognerà togliere questi detriti. Ma sì, ci sono diversi progetti da tempo che sono allo studio e direi in tutte le principali agenzie spaziali del mondo. C'è questo progetto che appunto prende il nome di Space Situation Awareness, che negli Stati Uniti ha già un certo, diciamo, sviluppo, che appunto sono proprio gli Stati Uniti che gestiscono poi queste stazioni per il monitoraggio dei detriti, ma in realtà si sta cercando di portare questo, diciamo, l'attenzione a questo tipo di problematica un po' a livello più globale, perché chiaramente non è un problema soltanto degli Stati Uniti, è un problema di tutti coloro che da un lato hanno astronauti sulla stazione, ma anche c'è un problema per esempio per i satelliti in orbita, perché comunque ci possono essere poi delle collisioni tra questi detriti e dei satelliti, e quindi satelliti magari operativi anche commerciali potrebbero avere dei danni a causa di questi impatti. Certo. Grazie Simona Di Pippo, buon lavoro. Grazie. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui con me adesso c'è Chiara Albicocco, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ma tu qui sei spesso, ma anche Daniele Ovadia, ciao Daniela. Ciao, ciao a tutti. Collega, viene a trovarci giornalista spesso. Di scienza. E spesso qui, però tutte e due eravate molto lontano da qui, a Doha in Qatar, e adesso insieme al vostro ospite che mi presentate ci dite perché eravate laggiù, io mi metto qui di lato, se mi viene qualche domanda ve la faccio. Ok, insieme a noi a Doha e insieme ad altri sei italiani eravamo a Doha, qui con noi al telefono intanto c'è Giovanni Spataro da Roma, che è un collega che scrive per Le Scienze, redattore delle Scienze. Ciao Giovanni. Ciao Chiara, ciao Daniela, buonasera a tutti. Ecco, eravamo a Doha appunto per partecipare circa una settimana fa per partecipare al congresso mondiale di giornalismo scientifico. C'erano veramente tantissimi giornalisti e colleghi da tutto il mondo, eravamo circa 720 delegati divisi in 90 paesi, quindi quasi un record. Sì, proprio tanti, divisi veramente in maniera quasi equa, nel senso che c'erano un 20% partecipanti dai paesi arabi e africani, un 20% provenienti dall'Europa, di cui noi facevamo parte, e poi un 17% statunitensi e americani, una piccola porzione di America Latina che si è detto appunto vogliano aumentare come partecipazione, e poi tutto il resto asiatici, tantissimi indiani, cinesi e giapponesi. Ecco, siamo stati lì, insomma, per raccontare un po' e farci raccontare quali sono le esperienze di giornalismo scientifico e di divulgazione anche negli altri paesi. La conferenza è iniziata con un discorso toccante e anche molto interessante di un premio Nobel egiziano, e il personaggio non era a caso, perché la conferenza prima di essere a Doha doveva essere al Cairo, però ovviamente per le vicissitudini che sappiamo, geopolitiche e di crisi, l'hanno dovuta spostare sempre in un paese arabo e appunto è stato invitato il premio Nobel per la chimica del 1999, Hamed Zewal, che ha fatto questa introduzione. Abbiamo raccolto qualche stralcio e vorremmo farvelo sentire. All the communication, all the used communications on Tahrir Square was done through the SMS. Qui ovviamente Zewail inizia dicendo tutta la comunicazione dei giovani di Piazza Tahrir è stata fatta con gli SMS, Facebook e Twitter e i social network in genere. Ecco, probabilmente la mia generazione, lui dice, avrebbe usato pietre e pistole. Ecco, questo è un passaggio piuttosto importante. Poi vabbè, lui prosegue dicendo che si è trovato in al Cairo proprio nei momenti più critici. Lui addirittura era nell'hotel, dice, con gli altri giornalisti, con i giornalisti del New York Times, con giornalisti a livello internazionale, e si accorgeva che appunto comunicavano tramite questi nuovi media, questi nuovi digital media. A questo proposito, insomma, Daniela, Giovanni, possiamo dire che lì si è parlato tantissimo di questi nuovi mezzi, che sono dei veri e propri mezzi giornalistici ormai. Direi di sì, direi anzi che forse è stata la novità, forse un po' ce l'aspettavamo, ma scoprire l'uso variegato e potente dei social media nelle varie rivoluzioni che hanno un po' costellato questa primavera araba, personalmente è stata una sorpresa come intensità, nel senso che leggendo i giornali era chiaro che Facebook, Twitter e altri strumenti del genere avessero avuto un ruolo fondamentale. Devo dire che sentirselo raccontare in prima persona da chi poi ha usato altre piattaforme come YouTube, come un giovane giornalista tunisino che ha parlato uno degli ultimi giorni e ci ha raccontato l'esperienza e il rischio di essere catturati per mandare video ad Al Jazeera, a cui era stato proibito di trasmettere dalla Tunisia, diciamo, l'ho trovato particolarmente toccante e particolarmente interessante, perché come ha detto anche Zewail e altri giornalisti arabi a Doha, con questo uso di social media si è rotto un paradigma dei paesi arabi, anzi un pregiudizio verso i paesi arabi, cioè il fatto che non siano capaci di usare la modernità, strumenti della modernità, per far procedere la storia. Ecco, e poi un ruolo fondamentale abbiamo scoperto, qui in Italia forse siamo ancora un po' indietro, ma sono i blog. Sia tu Giovanni che Daniele Ovadia avete il blog sulle scienze e avete, insomma, abbiamo sentito le testimonianze dei colleghi americani che appunto il blog lo utilizzano non solo come proprio organo di scienza e di giornalismo, ma che ci guadagnano anche dei gran bei soldini. Sì, è stata una scoperta, in realtà già lo sapevamo che a noi non capita così, ma i grandi blogger di scienza, tra l'altro, non stiamo parlando di blogger come l'Huffington Post, stiamo parlando di blogger di scienza, vengono acquistati da un editore all'altro, e abbiamo sentito alcuni di loro parlare. La cosa veramente interessante è stato per esempio scoprire che per i blogger di scienza la società non è un argomento che, diciamo, che esula dalla loro specificità di giornalisti scientifici, dipende da che cosa succede. Per esempio, uno dei grandi blogger che era presente lì è Mohamed Yahya, che è l'autore e il curatore del blog di Nature, che è una grandissima rivista scientifica di Nature Middle East, e anche lui è egiziano, anche lui scrive di scienza, e quando si è trovato in Piazza Tahrir in mezzo alla rivoluzione si è chiesto che cosa poteva fare per raccontare dal suo punto di vista di blogger ma anche di giornalista scientifico quel che stava succedendo, e si è guardato intorno e ha detto: intorno a me era pieno di scienza, a partire da come avevano messo sugli ospedali da campo per curare i feriti, fino al ruolo che gli scienziati hanno giocato nel spingere i cittadini a pensare a un futuro migliore. Insomma, in quel racconto, a noi giornalisti italiani abituati un po' a una visione settoriale del nostro lavoro, insomma, ci si è un po' aperto un nuovo orizzonte anche su quello che è il ruolo democratico e sociale del nostro lavoro. A me da altre testimonianze è arrivato il fatto che sono diventati sapientissimi nelle tecniche per aggirare tutte le forme di censura. Lì hanno inventato praticamente un nuovo know-how tecnologico nell'uso della rete, questi giovani scienziati informatici appunto dei paesi arabi, che sono ormai diventati espertissimi in questa tecnica di aggirare. In questo senso c'è stata qualche testimonianza interessante anche dalla Cina, diciamo testimonianza off the records, come dicono i giornalisti, sì. Perché ufficialmente durante le conferenze non erano molto presenti, ma davanti a un piatto di una buona cucina medio orientale si è chiacchierato tantissimo, e alcuni di loro mi hanno raccontato come fanno per esempio a collegarsi attraverso Google o attraverso altri motori di ricerca a siti che il loro governo intende oscurare, e anche per fare meglio il loro lavoro, insomma. Ecco, vorrei farvi sentire un altro stralcio del discorso del premio Nobel Ahmed Zewal di introduzione, in cui appunto parla dell'importanza dell'educazione, della scienza e della tecnologia proprio nei paesi in via di sviluppo. So for 12 years, in fact, ecco, qui dice che 12 anni fa, quando lo chiamarono le autorità egiziane per congratularsi, ovviamente perché aveva vinto il premio Nobel per la chimica, chiese loro di costruire in città in Egitto, al Cairo, una città della scienza. Ecco, per 12 anni fino ad oggi ha lavorato per innalzare appunto il livello di istruzione con questi mezzi, e dice che proprio dopo le rivoluzioni di Piazza Tahrir, questa è una nuova primavera per l'Egitto, un nuovo inizio, dove ha lavorato duramente per creare un grosso centro di eccellenza che sembrerebbe, insomma, stia aprendo le porte. Ed ecco qui, veramente, siamo in una nuova primavera. Sì, siamo in una nuova primavera, sicuramente. Devo dire che il progetto di Zewal di Città della Scienza, di Cittadella della Scienza, incontrerà paradossalmente, vista proprio questa progressione incredibile, della concorrenza da parte di altri paesi arabi. Noi che siamo stati a Doha abbiamo visto, osservato con i nostri occhi, diciamo, la rapidità e la velocità con cui in Qatar si sono costruiti università di eccellenza, spesso filiazioni di università eccellenti americane, e anche un parco tecnologico che sostanzialmente non ha nulla da invidiare ai nostri parchi tecnologici, anzi. Che ancora non è diciamo attivo al 100%. E poi un'altra cosa che sta accadendo è diciamo la rincorsa dell'Arabia Saudita anche in questo campo, quindi diciamo Zewail ci troverà a concorrere anche con progetti all'interno del mondo arabo. Dove questo potrà poi arrivare, diciamo, ancora forse non è dato sapere, perché a Doha abbiamo visto che spesso rasentavano un po' le cattedrali nel deserto, alcune magnificenze. Sarà che forse era il periodo in cui gli atenei erano chiusi, perché era giugno, quindi diciamo gli studenti sostanzialmente erano tornati a casa o comunque non erano sicuramente all'università. Ecco, io non so se voi siete d'accordo, ma ho quasi avuto l'impressione che tra i paesi emergenti ci fosse anche l'Italia, nel senso che ci siamo accorti che tanta strada ancora noi possiamo fare, Daniela. Sì, assolutamente. Su alcuni temi, tra l'altro, abbiamo trovato delle analogie curiose e che dovrebbero farci riflettere. Per esempio, in alcune sessioni organizzate, una organizzata anche da me, che riguardavano i temi etici, per esempio, questo forse non piacerà a qualche italiano, ma c'è stata una grande simpatia, nel senso etimologico del termine, da parte dei giornalisti dei paesi arabi, che la prima domanda che mi hanno fatto è stata: ma come si fa a parlare di etica laica in un paese con una forte impronta religiosa? Ora, questo può far sorridere, io sono assolutamente certa che non è la stessa cosa l'Italia rispetto, che ne so io, all'Arabia Saudita, però riscontravano nella nostra difficoltà di mantenere un'obiettività in quanto giornalisti scientifici su temi controversi, di cercare sempre di dire che cosa la scienza dice e non qual è l'opinione di una parte o dell'altra, un'analogia con la loro fatica di portare avanti determinate tematiche in paesi in cui l'impronta culturale e religiosa è molto forte, e questa è stata per esempio una scoperta inaspettata. E infatti, Daniela, riprendendo quello che tu stai dicendo, Zewail nel suo famoso discorso introduttivo dice anche: sono sicuro che durante la vostra conferenza si tratterà il rapporto tra Islam e scienza. Ecco, sarò franco con voi, non c'è niente contro la scienza nella religione islamica, e mi viene da dire anche nella religione cattolica, nel buddismo, eccetera eccetera, quindi insomma siamo d'accordo su questo. Il prossimo anno dov'è? No, tra due anni sarà a Helsinki, in Europa. Un po' diverso. E noi dobbiamo essere protagonisti. Bene, grazie Daniele Ovadia, grazie Spataro, ciao, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, ciao. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sta per arrivare il quiz che parla di cigni pronti con i vostri cellulari. C'è il merlo e la merla, c'è il gallo e la gallina. In altri volatili la differenza fra maschio e femmina si ha nelle dimensioni, ma nei cigni europei colore, piumaggio, dimensioni sono uguali. Come fanno a distinguersi fra loro? Prima possibilità. Infatti non si distinguono facilmente e i cigni incorrono spesso in imbarazzanti disguidi. Ci scriverete disguidi. Gli occhi. Il cigno maschio li ha rossi, quello femmina li ha gialli. Ci scriverete occhi. E infine, sul becco dei cigni c'è un nodulo, una protuberanza. Nel maschio questo nodulo è molto più grande che nella femmina. Ci scriverete becco. Come? Bene, al solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Autoritratto dell'immondizia, come la civiltà è stata condizionata dai rifiuti, scritto da Lorenzo Pinna ed edizioni Bollati Boringhieri. Questo libro in premio lo si ha grazie alla collaborazione con libreria Rizzoli.it. Salute, malattia, terapie sono questi tre ingredienti della realtà principale che regola la nostra esistenza, ovvero come viviamo e quindi la qualità psicofisica della nostra vita e quanto viviamo. Ci si può limitare a una visione molto stretta del problema, ovvero guardare al corpo, al suo funzionamento e ai farmaci che si possono usare. Non è questa una visione errata, ma se resta l'unica, allora sì, è insufficiente e in fin dei conti errata. La mappa del problema è molto più ampia e disegna una geografia della salute e della malattia che oggi è percorribile proprio assumendo un punto di vista più ampio. È quello che sta proponendo la Fondazione Sigma Tau con una serie di iniziative. L'ultima è in corso al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nella puntata della scorsa settimana vi abbiamo presentato l'appuntamento, ora ve ne raccontiamo alcuni passaggi centrali. Iniziando da Massimo Picari, medico, direttore della Fondazione, che coordina inoltre l'intero progetto. Sentiamo. Oggi discuteremo un tema che si chiama Geografie della Salute. Perché questo tema? Abbiamo cominciato a parlarne lo scorso anno verso settembre-ottobre e ciascuno di noi ha uno spunto. Il mio spunto per questo tema è molti anni fa, purtroppo devo dire molti, facevo il medico, il giovane medico a Roma in una zona piuttosto ricca, sostituivo un collega, e in questa zona all'epoca di extracomunitari già ce n'erano abbastanza, c'erano filippini, c'erano nordafricani eccetera, e come medici vedevamo alcune cose che non ci quadravano molto, magari le stesse malattie che fanno gli italiani le facevano in maniera un po' diversa, soprattutto la risposta ai farmaci era diversa, il farmaco antipertensivo non dava la stessa risposta che dà nel bianco, nell'italiano, e quindi ci accorgevamo che dovevamo imparare, dovevamo approfondire questi temi. Oggi che l'incontro fra etnie è un dato centrale del mondo in cui viviamo, la medicina deve saper indagare queste differenze. Non solo. Le mappe di questa geografia sono anche mappe necessarie per viaggi nel tempo, quando ad esempio ragioniamo su quella componente fondamentale per la salute che è l'alimentazione. Ascoltiamo ancora Massimo Picari. Il nostro cibo è andato avanti, noi siamo rimasti fermi al palo, noi siamo quello che eravamo 10-12 mila anni fa in termini di geni, di evoluzione. Il nostro cibo è andato avanti, siamo passati da una situazione di raccoglitori, cacciatori, a una situazione di agricoltori, e questo ci ha prodotto dei danni. Molta gente non lo sa, ma quando questo è successo ci siamo accorciati, siamo più bassi, all'epoca si è campato anche di meno in alcune aree degli Stati Uniti. È stato dimostrato che la transizione da cacciatori raccoglitori ad agricoltori, l'attesa di vita è passata da 26 a 19 anni. Cioè, per esempio, dicevo la statura, nell'area di Grecia-Turchia questa transizione ha comportato un accorciamento della statura di 15 cm e la statura adesso media di quelle zone non è ancora alla stessa altezza di quella che era nel Paleolitico. Oggi assistiamo a migrazioni di uomini e donne, ma anche a migrazioni di malattie. In paesi come l'Africa, l'India, la Cina, le malattie più diffuse erano quelle infettive. Oggi non è più così. Mark Hanson, direttore dell'Istituto di Scienze dello Sviluppo dell'Università di Southampton, è uno dei massimi esperti mondiali nel campo della medicina evoluzionistica. Sentiamo un passaggio del suo discorso. The tragedy is that as these countries undergo socio-economic improvement, la tragedia è che mentre in questi paesi assistiamo a un miglioramento delle condizioni economiche, dice Hanson, e quindi si ha una diminuzione delle malattie trasmissibili, infettive, malaria, tubercolosi, poliomielite, il rischio delle malattie non trasmissibili come il diabete sta crescendo, determinato dall'adozione di stili di vita occidentali, dall'allungamento della vita, dal fatto che, e possiamo anche dire fortunatamente, molti meno bambini muoiono alla nascita o nei primissimi anni e anche da famiglie numericamente più ridotte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede un aumento delle nuove malattie pari al 15% nel prossimo decennio. E questo è un dato terrificante, se poi pensate che in paesi come l'Africa si prevede un aumento del 25%. Ora, su queste malattie si può agire con la prevenzione. E fortunatamente quest'anno, a settembre, le Nazioni Unite dedicheranno una sessione speciale a questo problema. In sostanza, nei nostri paesi, il cui modello di vita sta imponendosi a livello mondiale, ci siamo ritrovati, questo non potevamo prevederlo, con le malattie tipiche di questo modello, quelle cardiovascolari, per esempio le gastriti. Oggi però noi sappiamo con assoluta certezza, è il caso di dirlo, che questi problemi emergeranno in altri paesi. Dovremo avere la capacità di intervenire su questo scenario. Altra mappa di questa geografia, tanto planetaria quanto metropolitana. Ascoltiamo Michael G. Marmot, docente di epidemiologia e sanità pubblica all'University College di Londra, autore per il governo britannico di un rapporto sulle diseguaglianze sanitarie pubblicato nel 2010. Count along the row, count seven women. If we were in Afghanistan, one of those women would have died. Contate, lui dice, mentre camminate lungo una strada, sette donne. Se fossimo in Afghanistan, una di queste donne morirebbe per conseguenze relative alla gravidanza e al parto. Una su sette. Ora, immaginate questa strada, e qui Marmo si riferisce a Spoleto, che percorre il corso centrale, passa sul ponte, poi vicino al Duomo e gira intorno alla città, e pensate di percorrerla 8-10 volte, in modo che possiate incontrare in questo lungo tragitto 47.500 donne. Una sola fra loro può morire per gravidanza e parto in un continente come quello europeo. Una su sette e una su 47.500. Questo è un fatto assolutamente non naturale e noi possiamo prevenirlo. And it's all completely unnecessary. We know how to prevent that. And life expectancy for men in Iceland is 80. In Zimbabwe, in Afghanistan, life expectancy for women is 42. L'aspettativa di vita in Islanda per gli uomini è 80 anni. In Zimbabwe, in Afghanistan, per le donne è 42 anni. In Giappone è 86. Differenze di più di 40 anni, ancora oggi, nel XXI secolo. I start from the assumption that there is no good biological reason why there should be a 44-year spread in life expectancy across the world. And in case you think... Io dico che non c'è alcuna ragione biologica perché ci sia questa differenza di 42 anni in alcune parti del mondo. E qualora pensaste che questa grandissima differenza nella qualità della vita sia un problema dei paesi poveri, vi dico che quando lavorammo al rapporto, noi facemmo un'indagine a Glasgow, la città scozzese di Glasgow. Nelle zone più ricche della città, la vita media per gli uomini è di 82 anni. Nelle zone più povere è di 54, 28 anni di differenza nella vita media in una città scozzese fra due zone che distano 11 chilometri. In life expectancy 11 kilometers distance in one Scottish city. Conclude così, con questo tono stupito e fortemente critico, Marmot il suo intervento. La prossima settimana racconteremo un altro aspetto di questo catalogo di mappe della salute, quello che ci rimanda alla medicina personalizzata. In un certo giorno del 2013, non ancora precisato, sul lago salato di Axkin in Sudafrica, un veicolo cercherà di raggiungere i 1600 km orari. È una velocità impressionante su terra, ma c'è già un record che non è poi così lontano, è di 1227 km orari e risale al 1997. C'è un'azienda, la Falcon Project, e il veicolo che sta per essere costruito da questa azienda per l'impresa sudafricana si chiama Bloodhound Supersonic Car. Bloodhound vuol dire segugio. Ebbene, questa auto che fa impallidire la Batmobile darà indicazioni per i viaggi spaziali. Come mai? Dunque, c'è stata una prima fase del progetto nella quale il Segugio doveva dotarsi di un motore simile a quello utilizzato in quei voli commerciali spaziali che in questi anni si sono già visti all'opera con prime missioni sperimentali nelle quali si sono raggiunte altezze notevoli e il cui obiettivo è quello di aprire delle linee di trasporto per privati, per civili in grado di compiere voli orbitali. Il modello di motore scelto per il progetto del Segugio usava un combustibile misto, ovvero sia solido che liquido, e il liquido era composto da protossido di azoto. Durante un test del motore effettuato nel 2007 si è verificata un'esplosione del protossido con un bilancio grave, 3 vittime. Questo evento ha sollevato dubbi sull'affidabilità di questo componente del combustibile. E una ricerca poi ha segnalato che incidenti esplosivi sono non rari con il protossido. La Falcon Project allora ha messo in moto un'analisi attenta di possibili alternative e ad oggi sembra che un valido sostituto sia stato trovato. È il perossido di idrogeno. In questa direzione si sta quindi lavorando su un nuovo motore, adattando quello del caccia europeo Eurofighter, e l'uso di questo tipo di motore era già stato scelto fin dall'inizio. Allora, se le cose funzioneranno, questo modello potrebbe passare dalla Terra allo spazio, proprio perché si rivelerebbe più sicuro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto noi qui a Mebius, quando parliamo di certi libri, lo facciamo perché vogliamo consigliare una lettura che non è appunto da libro che si prende sul comodino la sera oppure che si legge in metro. E qui stiamo parlando di un libro di cosmologia e ho di fronte a me il suo autore, Corrado Lamberti. Buonasera Lamberti. Buonasera. Anzi, ciao, perché ci conosciamo da tanto tempo. Sei un giornalista di scienza che però si occupa di astronomia, di astrofisica, di cosmologia da sempre. Sei anche un divulgatore. Hai scritto questo libro, Capire l'universo, edito dalla Springer, che ha appunto queste caratteristiche. Cioè, io mi sento di dirlo, lo suggerisco come un testo che, se uno vuole dire vabbè, adesso dedico un mesetto, me lo leggo con calma un po' ogni tanto e vado a capire l'oggetto più complesso, misterioso, sì, affascinante, strano nel quale noi siamo immersi, che è appunto l'universo. Il libro è scritto con una densità, diciamo, di linguaggio che dal punto di vista per esempio matematico basta, no? Quell'istruzione di base della scuola superiore, insomma un liceo, un istituto tecnico, e si porta a casa il risultato. E tu l'hai fatto apposta. L'ho fatto proprio per questo, perché la cosmologia non si riesce mai a capirla bene fino in fondo, non la si può raccontare solo a parole, qualche numero serve. Allora il mio sforzo è stato quello di tradurre in un linguaggio matematico e fisico che è alla portata della persona di cultura, diciamo la persona che ha fatto la matematica e la fisica del liceo scientifico, della scuola media superiore. Ecco, questo è stato lo sforzo. Un'altra caratteristica di questo libro è cercare di analizzare molte cose che vengono dette e che però, se andiamo a guardarle bene, no, tu ci dici sono delle immagini sbagliate. Lì se ne parla, sì, di tanto. Prendiamone una ad esempio che mi pare appunto significativa ed è forse quell'immagine tra le più diffuse. Il Big Bang, che cos'è? È come l'esplosione di una grandissima bomba, veramente grande, e allora noi ci immaginiamo uno spazio in cui improvvisamente tutta la materia che è contenuta in quella piccola bomba esplode e i pezzi vanno, esatto, ovunque. Non è così. Guarda, la gente ha questa idea. Il Big Bang è stata una grande esplosione, come se ci fosse una bomba che si generano centinaia, migliaia di frammenti e schizzano via in tutte le direzioni con tutte le velocità. Tra l'altro questa idea può prendere la gente perché ha una sua logica. Tu sai che la legge fondamentale della cosmologia è la legge di Hubble, che dice che gli ammassi di galassie si allontanano da noi con una velocità che è tanto maggiore quanto maggiore la distanza. Certo. Ora, l'idea dell'esplosione sposa in pieno questa legge, certo, perché uno dice quando esplode la bomba il frammento che è più veloce vola più lontano. Se io vado a vedere 2 secondi, 3 secondi, 5 secondi dopo dove si trova sicuramente a una distanza che è doppia, tripla del frammento che viaggia a una velocità che è la metà, un terzo. Senso. Ma non c'è niente proprio di più fuorviante e sbagliato. Tanto per incominciare, la bomba esplode in un certo punto ben preciso, il che ti fa pensare che ci deve essere un centro dell'esplosione nell'universo. C'è un centro, e questo è assolutamente è un concetto anticopernicano. Non c'è alcun centro dell'universo, noi non siamo al centro dell'esplosione, quindi già questo dovrebbe far prendere le distanze. Oppure un'altra cosa, l'evento esplosivo è avvenuto una volta all'inizio, poi basta, mentre invece la realtà dell'espansione del cosmo è una realtà che continua tuttora. Il cosmo si espande oggi, gli ammassi di galassie si allontanano oggi esattamente come si allontanavano 1 miliardo d'anni fa, 5 miliardi d'anni fa. Quindi l'espansione del cosmo è qualcosa che continua, non ha inizio e non ha fine. Infatti non ha fine. E quindi possono esserci state anche altri Big Bang. Questo adesso cominciamo a andare nelle cose che non sappiamo. Insomma, io dico che come fisici noi dobbiamo limitare la nostra analisi a ciò che abbiamo sotto mano. Cioè non dobbiamo uscire dal nostro laboratorio. Allora, noi cosa abbiamo sotto mano? Abbiamo un universo, ci guardiamo intorno e arriviamo con i nostri telescopi a vedere fino a un certo confine, che è quello che si chiama l'orizzonte cosmologico. Come viene definito quel confine? Dal tempo impiegato dalla luce ad arrivare fino a noi. Cioè, voglio dire, se l'universo è iniziato a espandersi 14 miliardi d'anni fa, se ci fosse una galassia distante da noi 16 miliardi d'anni luce, non avrebbe avuto il tempo la luce di raggiungerci. Arrivarci. Quindi quella galassia non la vediamo. In qualche modo noi siamo confinati dentro una bolla che ha quel raggio. Attenzione, questo numero 14 è sbagliato, poi se vuoi te lo correggo, ma tanto per rendere l'idea. Siamo confinati in una bolla che ha un raggio di 14 miliardi d'anni luce, lì dentro studiamo, facciamo osservazioni, creiamo modelli, cerchiamo di capire quello che è successo. Se mettiamo un piede al di fuori è un rischio, quindi non si tratta di un'esplosione. Si tratta che la struttura spazio-temporale si sta espandendo, la struttura in sé. Io capisco che è un'idea molto strana pensare che il vuoto diventi sempre più grande, sempre più largo, ma è così, e si trascina dietro gli ammassi di galassie che sono fermi su questa struttura spazio-temporale. È una cosa completamente diversa. Come dei punti su un palloncino, per esempio, che si gonfia. Esatto, e che vengono trascinati dall'espansione della sottostante struttura spazio-temporale. Ecco, però, Corrado, per concludere proprio su questo aspetto, però l'universo e la cosmologia genera immagini tremendamente difficili da maneggiare, però ci arrivano. Se tutti questi misteri, secondo te, si riuscirà prima o poi a capirne oppure siamo limitati? Si deve assolutamente. E la cosa bella è che abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni, sono state fatte delle scoperte tra il 1998 e il 2001-2002, sono state fatte delle scoperte fondamentali. Per esempio, ci hanno fatto capire che l'espansione dell'universo è accelerata e viene accelerata da un'energia che noi non a caso chiamiamo energia oscura, perché non sappiamo cosa sia. Bene, dietro quell'energia oscura si nascondono idee nuove nella fisica di base, non sappiamo ancora quali sono. Dietro l'idea della materia oscura, che abbiamo scoperto sempre tra il 98 e il 2001 essere presente, ancora una volta si parla di materia oscura per dire che sappiamo che esiste ma non sappiamo cosa sia. Queste sono particelle che ci raccontano di una fisica del tutto nuova, e quello che vediamo davanti a noi è un'alba straordinaria di nuove scoperte per la fisica di base. Ce la faremo, insomma. Io dico di sì. Grazie Corrado Lamberti. Grazie a voi. Siamo alla soluzione del quiz, ve lo ricordate? Come fanno i cigni europei a distinguersi tra di loro, fra maschio e femmina, visto che sono assolutamente uguali, colore, piumaggio, dimensioni? Ebbene, la risposta è che la differenza fra i cigni europei sta in quel nodulo sul becco, più grande nel maschio e più piccolo nella femmina. In realtà c'è anche una piccola